182. Krapfen primo. Proviamoci di descrivere il piatto che porta questo nome di tedescheria ed andiamo pure in cerca del buono e del bello in qualunque luogo si trovino. Ma per decoro di noi stessi e della patria nostra, non imitiamo mai ciecamente le altre nazioni per solo spirito di straniero-mania. Farina d'Ungheria grammi 150, burro grammi 40, lievito di birra quanto una grossa noce, uova uno intero e un rosso, zucchero un cucchiaino, sale una buona presa. Prendete un pugno della detta farina, ponetela sulla spianatoia e fattale una buca in mezzo, stemperateci dentro il lievito di birra con latte tiepido e formatene un pane di giusta sodezza sul quale inciderete un taglio in croce per poi conoscer meglio se ha rigonfiato. Ponete questo pane in un tegamino o in una cazzarolina nel cui fondo sia un sottilissimo strato di latte. Copritela e lasciatela vicino al fuoco onde il pane lieviti a moderatissimo calore. Vedrete che basterà una ventina di minuti. Lievitato che sia, mettetelo in mezzo alla farina rimasta e intridetela con le uova, col burro liquefatto, con lo zucchero e col sale. Se questo pastone riesce troppo morbido, aggiungete tanta farina da ridurlo in modo che si possa distendere col matterello alla grossezza di mezzo dito. Così avrete una stiacciata dalla quale con un cerchio di latta taglierete tanti dischi della grandezza di 4,5 cm. Ammesso che ne facciate 24, prendete un uovo o altro arnese di forma consimile e con la punta del medesimo pigiate nel mezzo di ognuno dei dischi per imprimergli una buca e in 12 di detti dischi ponete un cucchiaino di un battutino tirato col sugo e la balsamella, composto di fegatini, animelle, prosciutto, lingua salata, odore di tartufi o di funghi, il tutto tagliato a piccoli dadi. Bagnate i dischi all'intorno con un dito intinto nell'acqua e sopra ciascuno sovrapponete un altro disco dei 12 rimasti vuoti. Quando saranno tutti coperti, premete sopra i medesimi un altro cerchio di latta di 3,5 cm, onde si formi un'incisione tutto all'ingiro. Ora che avete questi 12 pasticcini ripieni, bisogna lievitarli, ma a lieve calore, e ciò otterrete facilmente ponendoli vicino al fuoco o dentro a una stufa. Quando saranno rigonfiati bene, friggeteli nel lardo o nell'olio in modo che siano ricoperti dall'unto e serviteli caldi come fritto o piatto di tramesso, il quale per la sua apparenza e bontà sarà giudicato piatto di cucina fine. Se volete che servano per dolce, non avrete altro da fare che riempirli di una crema alquanto soda o di conserva di frutta, spolverizzandoli dopo cotti di zucchero a velo. Per un'altra ricetta di questi Krapfen, vedi il numero 562.